Benvenuti e benvenute a tutti e a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Questa è Tracce di Cinema. Ottavia, Federico e David qui con voi per parlare di cinema, per parlare di musica. Oggi un film speciale per me, Paz, un film italiano di Renato De Maria che racconta le storie di un grandissimo fumettista italiano, uno dei più grandi secondo me in assoluto, Andrea Pazienza. La lista è lunga delle sue opere. Lui in questo film, Renato De Maria racconta insomma dei fumetti di Pazienza che sono stati importantissimi, come quello di Zanardi, Pentotal e Andrea Fiabeschi, che è un piccolo fumetto che esce così distinto dai due romanzi che sono Pentotal e Zanardi. Io sono molto emozionata perché comunque insomma ripercorriamo con questo film e con le musiche di questo film una parte della storia insomma importante, l'occupazione, il movimento studentesco e un periodo musicale. I 70, a Bologna in particolare. Sì, a Bologna, e un periodo musicale che insomma per me è stato molto importante perché mi ha segnato profondamente. Parliamo di gruppi come i CCCP, Lucio Dalla anche, Just Mamò e poi gli Area, Gaz Nevada e tanti altri, DJ Sensei, Ice One, insomma presente anche all'interno di questa radio, insomma ha fatto tanto, no? Gli Schiantos. Dimenticavamo gli Schiantos, il gruppo preferito di mio figlio Vasco che ha 13 anni e quindi grande. Insomma sono grandi se riescono a fare breccia nel cuore di un tredicenne, no? E quindi insomma parliamo di Paz. Paz è la storia di questi tre personaggi che vivono in un appartamento a Bologna, in via Emilia Ponente, e convivono senza mai incontrarsi. Si sfiorano, si incontrano ogni tanto, si incrociano con lo sguardo, e sono tutti e tre molto diversi. C'è Pentotal, che è interpretato da Claudio Santamaria, devo dire molto bravo, sì, molto bravo, che è uno studente fuori sede e un fumettista, quindi un po' l'alter ego di Andrea Pazienza, no? È autobiografico il fumetto, infatti, decisamente. Che è sempre in pigiama con delle logore Clark stracciate ai piedi e vive chiuso nella sua stanza dove tra canne e sogni di visioni sente il mondo scorrergli a fianco. E poi c'è Zanardi, che è un po' la rappresentazione di quello che c'è più di cattivo in tutti noi, no? Tipo, sì, la rappresentazione del male in tutti noi. È un liceale, e anche lui vive nell'appartamento di via Emilia Ponente ed è accompagnato da Colas e Petrilli, sì, che sono i suoi insomma compagni di scorribande e che con i quali insomma organizza il recupero di una agendina che viene trovata nella casa della preside della loro scuola dopo che loro hanno crocifisso il gatto della preside, che in questo caso è Yaya Forte, molto brava anche lei, bravissima, sì. E poi c'è Enrico Fiabeschi, Max Mazzotta, fantastico, che è il classico fuorisede fuori corso, non gli importa nulla della politica e meno che mai dell'amore, si fa mantenere dalla fidanzata Anna. Sì, gli scrocca sempre 5 carte. Quella mattina è l'ultimo ad alzarsi nell'appartamento, deve andare a fare un esame al DAMS. E insomma il film è straordinario, perché poi oltre a questi attori che sono tutti, devo dire, molto molto comunicativi e bravi, ci sono anche molti cammei, insomma poi ne parliamo poi mano a mano. Sapete chi temo di più? Quelli che sballano e parlano, dicono stronzate e poi si pentono. Bestiali. Tu sei così. Cazzo, non ho parlato tutta la sera. Merdone. Che fesso. È una paglia accesa in bocca, una accesa in mano e una accesa nel posacenere. E questo era DJ Sensei, la colonna sonora del film Ice Fast, One, detto anche Ice One, c'è anche altri alias, poi semmai li diremo. La colonna sonora del film Paz è stata curata da Riccardo Sinigaglia e Francesco Zampaglione dei Tiro Mancino. Quindi oltre a tante musiche di quegli anni, come abbiamo detto, dalla Schiantos eccetera, ci sono anche delle rivisitazioni di Sinigaglia, di Zampaglione, ad esempio la versione come Profondo il Mare. Di DJ Sensei, che dire, che è un rapper, beatmaker e writer italiano che inizia la sua attività negli anni 80, ha fondato anche i Colle del Fomento nel 99, no, anzi molto prima, poi se n'è andato nel 99, e ha collaborato anche con Sinigaglia e Zampaglione in vari colonne sonore. Universalismo panico, nomadismo schizzoide, dittatura del significato, proletariato in precarizzazione, tempo liberato dal lavoro, temporalità proletaria sottrattiva, sottrazione sociale generalizzata, manifestazione non violenta, difesa con armi leggere, creativismo isterico, maodadaismo, poetica sensuale ironica, deterritorializzazione, riterritorializzazione, soggettivismo isterico, femminilizzazione generalizzata, sovversione creativista, rimozione del soggetto. La felicità è sovversiva quando si collettivizza. Una formalità. E questo era Io sto bene di Ferretti, cioè dei CCCP, di Giovanni Lindo Ferretti, rifatta con gli Usmamò. Chi sono gli Usmamò? Una band dell'Appennino reggiano che ha suonato negli anni 90, poi nel 2003 si è sciolta. Infatti sono proprio montanari, cioè dell'Appennino. Nel dialetto locale Usmamò vuol dire proprio adesso. Nei primi anni ha cantato una donna, Mara Redeghieri, Redeghieri, che canta in dialetto. È proprio il dialetto che sottolinea il fatto che loro sono legati alla montagna, no? Hanno fatto concerti anche in tanti piccoli teatri, hanno suonato un po' ovunque in Italia. La cosa bella è il fatto che hanno suonato nei teatri. E poi hanno firmato delle canzoni straordinarie come, secondo me, Amore, cuore e canto nel vuoto, che erano dei pezzi secondo me molto molto belli. E di Ferretti? E di Ferretti, beh, la storia di Ferretti è, gli ascoltatori di questa radio la conosceranno di sicuro, insomma sono abituati a sentire i pezzi dei CCCP e di Ferretti e, anche CSI, PGR, cioè, poi l'ho perso dopo i suoi deliri e adesso ne parliamo, anche politici, infatti, l'ho lasciato perdere, ma io ne vorrei parlare perché noi, insomma, nella vita è anche bello cambiare, no? Certe volte si cambia in peggio, però. No, beh, insomma, di Giovanni Lindo Ferretti su Mucchio Selvaggio hanno scritto che è una persona speciale, diversa da ogni altra, di quelle che non sembri esagerato possono cambiare la vita di quanti ne incrociano il percorso, e per qualcuno è stato così, per la sottoscritta è stato così. E la sua storia inizia a Berlino quando incontra Massimo Zamboni, con il quale nel 1982 fonda i CCCP, che si sciolgono nel 92 si forma un nuovo gruppo che è il Consorzio Suonatori Indipendenti, e poi successivamente con alcuni ex componenti dei CSI Ferretti fonda i PGR per grazia ricevuta. Poi inizia a scrivere Giovanni Lindo Ferretti. Ah sì? No? Sì, inizia a scrivere e scrive un resoconto del viaggio effettuato in Mongolia sempre con Massimo Zamboni. Nel 2004 pubblica un album con Ambrogio Sparagna dal titolo Litania, e nel 2007, a seguito della pubblicazione del suo primo libro Reduce, bellissimo secondo me, una biografia con delle memorie d'infanzia, delle poesie e degli anatemi sulla società contemporanea, continua insomma il suo lavoro, organizzando nel 2000 un concerto per l'Africa che finisce in rissa. Compare nel film, giusto? Sì, sì, compare nel film. Eh sì, un uomo che mangia in silenzio una mela. Sì. Un piccolo cameo. Un piccolo cameo bellissimo. E va detto anche che Zamboni poi ha continuato da solo in versione solitaria, anche in qualche colonna sonora, anche comunque lavorando alla musica, ai dischi, comunque ha continuato in modo notevole la sua attività. E invece Giovanni Lindo Ferretti, invece di continuare la sua attività di cantante, inizia a fare insomma un'attività di pensatore, di opinionista. Nel 2005 infatti si è espressa a proposito del referendum sulla procreazione assistita, dichiarando di essere favorevole all'astensione, e poi ha dichiarato di aver votato per la coalizione di centrodestra nelle elezioni dell'aprile 2006. Come si cambia? Durante l'8 marzo del 2008 Ferretti ha partecipato ad una manifestazione indetta dalla lista antiabortista creata da Giuliano Ferrara, sempre peggio, e dopo aver intrapreso un viaggio in Israele, nonostante abbia in passato sostenuto l'intifada e la Palestina, ha abbracciato la causa israeliana. Come si cambia nella vita? Nel 2007 ha partecipato anche al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione. Boh, che paura. Una lunga discesa. Io sono la lama, mi commuovo nei bassi fondi, parlo con i ricercati dello Stato, brigo, mi procuro e dilapido milioni, poi rischio, mi struggo, mi umilio, poi mi arrendo, poi rifaccio e tutto torna bello, più splendente di prima. L'alternativa è la birreria, il lavoro, il risparmio, il normale sfaldarsi del corpo, il simpatico, l'antipatica, lo scemo naturale, 2 più 2 fa 4, sveglia alle 8. Due palle anche lì, è peggio di qua. Ma vuoi mettere risorgere? Risorgere! Risorgere! Risorgere! Risorgere! Allora, volevo dirvi che Pentotal è uscito nel 1977, quando Andrea Pazienza aveva soltanto 21 anni. E ha spaccato. Andrea Pazienza è diventato celeberrimo, famosissimo. Sulla rivista Alter, su cui è uscito appunto Le straordinarie avventure di Pentotal, insomma, ha avuto un grande successo, ed Andrea Pazienza era già considerato un punto di riferimento per la sua generazione e per anche gli altri fumettisti italiani, insomma. E il fumetto è autobiografico. Il fumetto è autobiografico, sì, come quasi tutte le opere di Andrea Pazienza. Anche Zanardi, quando esce, ha un grande successo e esce sulla rivista Frigidaire, diretta da Vincenzo Sparagna, sorto dalle ceneri di un'altra rivista famosissima, Cannibale, che sarebbe stata destinata a lasciare un grande segno, un profondo segno nel mondo del fumetto e della cultura giovanile italiana. Su questa rivista, con la storia Giallo Scolastico, nel 1981 fa la comparsa Massimo Zanardi, il personaggio più conosciuto di Andrea Pazienza, secondo me dopo Pompeo, perché anche Pompeo, insomma, è abbastanza importante, però non ne parliamo perché non fa parte del film, a parte una piccola citazione di un pezzo, insomma. Ci sono tante citazioni a vari fumetti, anche a singole vignette. Sì, ma poi ne parleremo poi con il nostro ospite, avremo modo di fargli molte domande. Siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Babbo, che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Com'è profondo il mare, profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro. Dio, chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Com'è profondo il mare. Forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, resuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni correlativi e vagoni, innalzò per un attimo il povero ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare. Sono immerso in mare, come profondo il mare. Solo l'urlo diventò un tamburo e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Come profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso. Fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene. Poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Come profondo il mare. Intanto un aviatore, inventò la commozione che rimise d'accordo tutti, i belli con i brutti, con qualche danno per i brutti, che si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. Come profondo il mare, frattanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che allora indubbiamente doveva sembrare cattivo e cominciarono a pensare. Come profondo il mare. Chiaro, il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, come pesce difficile da bloccare, che lo protegge il mare. Come è profondo il mare. Certo, chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero come l'oceano lo puoi bloccare, ma io recitare, così stanno bruciando il mare. Così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno spiegando il mare. E questa era la bella versione di Come è profondo il mare di Lucio Dalla con i Tiro Mancino. Oh, questo brano ci introduce al nostro ospite di questa settimana, che è proprio il regista del film, Renato De Maria. Ben ritrovato su queste frequenze, Renato. Ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti. Abbiamo scelto, siamo alle prime puntate, il primo film italiano è toccato proprio a Paz e quindi siamo particolarmente contenti di avere te come ospite quest'oggi. E sono onorato, guarda, perché mi fa molto piacere. Ovviamente Paz è un film a cui sono legatissimo, ma a cui è legata tantissima gente, tanti ragazzi, anche non ragazzi, insomma, che sono rimasti legati a questo film perché in qualche maniera si vede che ha toccato delle corde che coinvolgono un po' tutti, insomma, emotive, ecco. E Com'è profondo il mare, per esempio, io ho riascoltato la colonna sonora per prepararmi a questa intervista, non la riascoltavo da parecchi anni, adesso faccio la figura di quello che se la canta e se la suona, però è bellissima proprio, tra l'altro non l'ho fatta io, quindi l'ha fatta, però bellissima proprio, piena di tante cose, tanti suoni diversi. E con me profondo il mare mi ha emozionato molto sentire quando entra la voce di Lucio. È vero, anche a noi è emozionante. A metà del pezzo è stata un'emozione fortissima. Renato, tra l'altro ci ha regalato il i diritti del pezzo, era fan di Andrea Pazienza, fan del nostro film, persona molto generosa. Tra l'altro ne parlavamo prima fuori onda quando ci siamo sentiti, io la trovo anche più bella dell'originale perché crea un'atmosfera perfetta per il film, secondo me. Sì, esatto, certo, assolutamente è vero. C'ha questi suoni elettronici un po' lisergici che Riccardo Sinigaglia, insieme a Tino Mancino nel caso di questo pezzo, ma Riccardo Sinigaglia ha curato un po' tutta la colonna sonora, è riuscita a dare, insomma, in un misto tra epoca anni 70 e suono elettronico lisergico moderno, ecco. Riguardando poi alla sceneggiatura, è stata un po' una scoperta perché ci ritrovo Francesco Piccolo e Ivan Cotroneo, che poi hanno avuto due destini di buon successo, insomma. Ivan è stato anche nostro successo. Ivan ha cominciato con me proprio quando ancora era al Centro Sperimentale, aveva visto il mio primo film che gli era piaciuto molto, e quindi abbiamo scritto insieme una sceneggiatura che non è mai stata fatta, e poi abbiamo fatto insieme Pazze. Credo che anche per Francesco Piccolo sia stata una delle prime, se non la prima, una delle prime esperienze di lavoro col cinema, ecco. Io adoravo le sue rubriche che teneva su una rivista che adesso non fanno più, che si chiama Diario, molto comiche, molto belle, con una scrittura estremamente, insomma, si capiva che era una persona molto intelligente, molto capace. Ci siamo incontrati in un bar della stazione in Termini e gli ho proposto se voleva darci una mano, a me e Ivan, che avevamo scritto un po' tutto il film, diciamo, e lui ha fatto un lavoro di revisione e riscrittura insieme a noi molto bello. Insomma, è stata una bellissima esperienza. Oh, questo... Da lì loro hanno decollato. Sì, diciamo. Sì, decisamente. Decisamente. Renato, la curiosità è rispetto. Io l'ho trovato un'operazione coraggiosa perché portare sullo schermo i fumetti di Pazienza era rischiosissimo, e volevo chiederti come avete poi puntato su queste tre storie rispetto all'opera monumentale di Pazienza. Dunque, il rischio è stato talmente forte che nessuno me lo voleva far fare, dicendo ma come ti permetti, alcuni sono proprio incazzati, no? Ma come ti permetti di pensare di poter fare un film da un genio come Andrea Pazienza, eccetera. Però, insomma, osare non fa mai male, insomma. E, dunque, è stato un lavoro molto lungo. Dunque, innanzitutto, allora, la scelta non è casuale, chiaramente. Pentotal è il personaggio, diciamo così, iniziale di Andrea Pazienza, no? Quello con cui lui comincia, anche quello più autobiografico, e quindi in qualche maniera contiene un po' tutte le storie e tutto il percorso esistenziale di questa generazione che io volevo raccontare. E quindi Pentotal è Andrea Pazienza nella maniera più assoluta e totale. Quasi tutti i fumetti di Andrea hanno un alto tasso autobiografico, con chiaramente intenzioni, ma Pentotal in particolare è proprio estremamente legato alla persona di Andrea, insomma, al suo immaginario, i suoi sogni, le sue pigrizie, il suo essere artista indolente, il suo essere adolescente, il suo essere perennemente sentirsi escluso da qualcosa, eccetera, che poi è un po' una condizione di tutti, quindi Pentotal irrinunciabile. Fiabeschi è stata l'operazione più ardita, perché Fiabeschi appare solamente in un fumetto che tra l'altro è una storia di Zanardi, in giorni di Zanardi, ed è Fiabeschi semplicemente quello che va a dare l'esame di Apocalypse Now al DAMS, sì, in questo episodio, no? Però Fiabeschi è un po' un personaggio che c'è in tantissime vignette che Andrea ha fatto su Frigidaire, sul male, dappertutto, insomma, nelle storie piccole, che è il fuorisede, fuoricorso, fuori di testa, fuori... in generale fuori, insomma, no? Sì. Era veramente il fuorisede, fuoricorso, che era un classico di quasi tutte le università dell'epoca, e quindi ho unito intorno all'episodio dell'esame tantissime vignette appunto pubblicato in tante altre parti, diciamo così. Quindi quello è stato il lavoro narrativamente più libero, ecco. E poi Zanardi, come rinunciare a Zanardi, cioè è l'alba degli anni Ottanta, no? Sì, sì. Molti, per molti è identificativo proprio dell'opera di Pazienza Zanardi, insomma. Esatto, sì, lo so, perché è quello che in qualche maniera ha avuto più... Era l'unico ad avere una sensazione di storia, Zanardi, no? E in più era cattivo, era spietato in qualche maniera, no? E però anche quello più inventato come personaggio rispetto alla biografia di Andrea, anche se rappresenta un po' tanti ragazzi che... conoscevamo bene, insomma. Ciao Renato, sono Ottavia. Ciao grandissima, ciao, è un libro bellissimo. Come stai? Bene, bene. Senti, a proposito di Zanardi, ti volevo che tu mi confermassi una cosa, che io mi sono insomma un po' documentata su Pazienza, e lui in un'intervista ha detto proprio che dopo aver scritto Zanardi ha deciso di lasciare Bologna perché aveva paura di questo personaggio che forse in realtà esisteva veramente. Adesso non so se dentro di lui o fuori di lui. È una classica invenzione narrativa di Andrea, però certamente con Zanardi si è chiuso un'epoca, no? E quindi per lui aveva fatto, ecco, con Bologna, con Zanardi, ecco, perché Zanardi in qualche maniera è veramente l'annuncio degli anni Ottanta. Nel mio film c'è questo percorso contemporaneo di Pentotal e Zanardi, no? Ma Pentotal e Zanardi sono le due punte della sua esperienza bolognese. Pentotal è l'inizio, la tenerezza, così il sogno, l'amore, queste cose qua. Zanardi è 4 anni dopo, 5 anni dopo, cioè appunto Zanardi è cinico. È un lupo, è un personaggio, non chiamatemi Fido, dice, sono un lupo. Senti Renato, abbiamo parlato di Com'è profondo il mare, ecco, uno sguardo un po' più complessivo sulle scelte della colonna sonora. Dunque, guarda, lo sguardo è una colonna sonora veramente bella, lo ripeto, sono rimasto stupito da riascoltare, perché c'è appunto la punta elettronica, che allora era un DJ romano che è tuttora in attività, si chiama DJ Sensei, che quindi si passava appunto da Com'è profondo il mare, che è insomma una delle canzoni più belle di Lucio Dalla, che è Bologna, ma che è anche un tipo di poetica degli anni 70, quel pezzo, no? Sì. A DJ Sensei, che era appunto legato ovviamente a Zanardi, e poi in mezzo ci sono ovviamente i CCCP con Io sto bene, che è un chiaramente un manifesto anche quello esistenziale, e poi ci sono gli Schiantos con Eptadone, quindi un omaggio ovviamente all'epoca demenziale. Poi ci sono i Gas Nevada, che erano un gruppo, il primo gruppo punk italiano, poi diventato New Wave, che fanno questo pezzo Japanese Girl su Rosalinda Celentano, che avanza nuda, appunto una delle visioni di Pentotal. E poi per esempio alcuni gruppi che hanno rifatto pezzi degli anni 60, come Banana Dura, rifatto da un gruppo moderno che adesso non ricordo il nome, Sanda. Ma bravissimi. E poi Area, e poi gli Area, per dire, quindi la sperimentazione più assoluta, forse il gruppo più moderno in assoluto, perché ancora adesso ci sono dei ragazzi di 16 anni, 17 anni che proprio sono fan di Paz e fan del fatto che ha usato gli Area. Il progressive rock credo che stia vivendo un momento nelle nuove generazioni molto, molto forte, ecco, per cui noi abbiamo avuto anche gli Area, insomma abbiamo cercato di mescolare, come ti ho detto, insomma suoni degli anni 70, del progressive al progressive rock, al cantautore, a CCP, al punk rock, alla new wave, insomma. Però tutto senza dare niente per scontato, niente di retorico. Direi tutto perfetto, fantastico. Renato, un bellissimo grande, film. Grazie, lo penso anch'io. Io l'ho rivisto ieri sera e ho riso. pianto, mi sono commossa, veramente un bel film, ragazzi. Un bel film. Poi per esempio dicevi di degli Ari, ecco, Demetrio Stratos sicuramente è stato uno degli elementi di punta deallstagione progressive italiana e non solo, riconosciuto a livello mondiale, e mondiale. Hai attinto al loro repertorio con un pezzo tra i meno conosciuti, cioè tra quelli che si sentono di meno, insomma. Sì, questo, le scelte, sai, di un pezzo o di un altro derivano da tanti motivi, no? Uno è il sapere musicale di Riccardo e dei suoi collaboratori, che è stato straordinario, però anche da scelte di, banalmente, di montaggio, cioè era un pezzo straordinariamente efficace sui disegni di Andrea Lì, avviene in una, c'è Pentotal, insomma, che ha dei sogni, insieme c'è Rezza che gli appare dall'armadio, no? Sono quei folletti che apparivano a Pentotal. Beh, veramente c'è tanto da dire anche su questo, tutti i camei che tu hai scelto, non so, da Giorgio Tirabassi a Ricky Memphis, a Frick Anthony che fa il bidello, a Giovanni Lindo Ferretti che appare nella scena in cui lui cerca una canna durante l'occupazione. Beh, insomma, hai ripercorso delle, insomma, hai estrapolato delle cose e dei personaggi che secondo me straordinariamente, cioè, facevano parte anche di tutta la, insomma, la storia di Pazienza, insomma, potevano uscire fuori anche dai suoi fumetti. Sei stato un grande, secondo me. E adesso tutti questi complimenti. L'ho sentito molto questo percorso, uno perché nessuno me lo voleva far fare, sono messo 5 anni a farlo, l'ho fatto con 500 milioni di lire, quindi 250 mila euro di oggi, con una telecamerina digitale, poi trasferiti in pellicola, insomma, con molta amore da parte di tutti quelli che hanno sposato il progetto, da chi ha lavorato in scenografia, cioè, e anche per le persone che hanno fatto le musiche, tutti hanno amato il progetto. Per, diciamo la verità, alla base c'è un genio assoluto, cioè Andrea ha fatto, però tu sei riuscito a mettere in scena qualcosa di, insomma, un fumetto, dei fumetti che, insomma, non è facile evocare certe percezioni, certe cose cinematograficamente, insomma, secondo me hai fatto un lavoro difficile. Ma Federico ti voleva chiedere un'altra cosa, io poi alla fine volevo chiedere un'ultima cosa a Renato prima di chiudere. Sì, ok. No, volevo chiedere a Renato, so che tu hai conosciuto Andrea Pazienza. Sì. È vero? Sì. Il motivo per cui l'ho fatto è questo motivo qua, che io ero molto amico di Andrea, ho frequentato tantissimo quando lui stava a Bologna, nel suo periodo pentotaliano, diciamo, ma proprio tanto, tanto, abbiamo passato nottate insieme, insomma, vagando per Bologna, insieme ad altre persone, non solo io e lui, insomma, eravamo un gruppo, allora sì, un gruppo, e quindi per quello mi sono sentito confident, come si dice, cioè io a questo produttore dico, non fare il nome, che è proprio, se incazzare, come ti permetti di fare un film su Andrea Pazienza, e ho detto, senti, sto parlando della mia vita, mica di un fumetto semplicemente, insomma. Mi piacerebbe che tu raccontassi a me, a noi, insomma, agli ascoltatori, un ricordo che hai di Pazienza. Io ho sentito in un'intervista che tu raccontavi di una serata in cui vi siete incontrati in una casa occupata, in cui lui è arrivato con una Olivetti sotto braccio. Dunque, o qualcos'altro, insomma, un ricordo di Andrea Pazienza che tu hai. Dunque, era una persona innanzitutto alto, bello, che faceva taekwondo, cioè un ricciolo pieno di vita, eccetera, perennemente in ritardo, bugiardo, come solo le persone belle e intelligenti riescono ad essere, freneticamente creativo. Non è che l'ho incontrato una sera lì, noi passavamo tutte le sere in questa casa occupata, che era la famosa Faun Fabric di via Clavature, dove c'era anche Scozzari, veniva spesso anche Tamburini, Liberatore, i gruppi musicali di Bologna, eccetera, e si stava lì tutta la notte, sovraccitati da così creatività varia, e lui una volta arrivò con una ferita in testa, ci aveva fatto a botte in Piazza Verdi, non so con chi eccetera, e quindi c'aveva una ferita in testa, un cerotto mezzo rasato eccetera, l'Olivetti in mano, entrò dentro come una furia, perché doveva consegnare il testo appunto di un fumetto di cui di Pentotal proprio, di cui aveva già fatto le tavole, però doveva finire di mandare il testo e finire il lettering dentro. Quindi con la Olivetti 22 a battere furiosamente sopra la macchina per scrivere i testi del fumetto, intanto parlava, raccontava della vista, delle cose in mezzo a altre 20 persone che mettevano sui dischi, chi entrava, chi usciva, chi accendeva le sigarette, chi no, in un bordello micidiale. È riuscito a scrivere questo fumetto, di cui non, la cosa che mi dispiace è che non so quale pagina fosse di Pentotal, ha scritto questo fumetto, poi si è messo poi sono state le 2 del mattino, ha trovato dei fogli, abbiamo continuato a parlare fino alle 4, alle 5 del mattino, e ha sparso per il terreno io credo almeno 200 tavole, cioè una cosa pazzesca, stamano che andava una cosa veramente fuori dalla natura. Sei stato fortunato a incontrarlo, noi fortunati anche a leggerlo e sapere di lui attraverso le sue meravigliose tavole. Renato, sono stato fortunato, sì. Però insomma è una generazione che ha avuto fortuna e sfortuna, non è che sono solo rose. Sì, sì, sicuramente. Però questo bisognerebbe fare una trasmissione a parte, forse. Renato, è stato un piacere, ti ringraziamo, a risentirci presto, spero. Speriamo, vediamo se faccio degli altri lavori interessanti, delle altrettante belle colonne sonore, magari ci risentiamo. Senti, cosa ti piacerebbe che mettessimo, per esempio, di questo? Ma guarda, visto che avete cominciato con Dalla, io sono molto legato a Roberto Fricantoni, un altro mio carissimo amico, anche una persona che voglio bene tantissimo, un Eptadone, poeta, molto poco, molto meno amato e rispettato di quanto avrebbe meritato. È stata una persona veramente molto molto importante, altrettanto geniale quanto Andrea, ha avuto meno fortuna di Andrea dal punto di vista artistico, diciamo, nel senso che non gli è stato riconosciuto il lavoro creativo che lui ha fatto, per cui io metterei su il pezzo di Frick in suo onore, ma è una scelta assolutamente così affettiva, potete scegliere qualunque pezzo. No, lo abbiamo considerato, per cui a questo punto è una scelta condivisa. Allora ci salutiamo sulle note degli Schiantos, un abbraccio Renato. Grande, un abbraccio a voi due, grazie. Ciao. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Renato. 1, 2, 6, 9! Yeah. E questa era Eptadone degli Schianto. E voi siete sempre sintonizzati su Radio Onda Rossa 87.9. Se amate questa radio dovete sottoscrivere al conto corrente postale 61804001, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 001 85 Roma. E se volete comunicare con la radio potete mandare un'email a ondarossa@ondarossainfo. Se volete mandare un'email a Tracce di Cinema potete farlo mandandola a Tracce di Cinema @ondarossa.info. Oh, siamo quasi alla fine, Ottavia, e abbiamo un rebus, perché ci sarebbe il pezzo, lo spezzone dell'esame che Renato ha citato, e come facciamo a non metterlo? E poi parlavamo anche degli Area, io non so, e questo ci porta proprio alla chiusura. Queste, sì, queste due cose ci portano, anche perché Attica Blues questa volta c'è. Allora c'è ci salutiamo con lo spezzone degli esami di Fiabeschi, e con gli Area, con Vodka Cola, e ci diamo appuntamento giovedì prossimo, sempre dalle 15 alle 16. Sempre alle 15 alle 16 con Tracce di Cinema, e ci sentiamo, godetevi la musica. Ciao a tutti. Buongiorno. Argomento? Apocalypse Now. Si tolga gli occhiali, per favore. Gli occhiali? No, perché siccome ho studiato tutta la notte, c'ho un po' gli occhi. Vabbè, li tolga lo stesso. Oh. Va bene, allora mi parli di Apocalypse Now. Sì. Dunque, Apocalypse Now, regia di Francis Ford Coppola, musica dei Doors. Mm-hmm. Dunque, il film comincia praticamente con una foresta incendiata, sopra tanti elicotteri, no, che cammin- cioè che volano, e sotto la musica dei Doors, tutta una bella scena molto forte. Quanto è costato il film? Un sacco di soldi, solo di elicotteri avranno speso tipo $1 milioni, poi storaro tutta la cosa di... Lei ha letto qualcosa di questo film? Certo. Dunque, l'attore protagonista è Marlon Brando. Marlon Brando fa Kurtz, che è l'attore protagonista del film. Kurtz è uno tutto che sta così, poi c'è tutto quando... Come si chiama il vero attore protagonista? Cioè, come il vero... Il vero attore protagonista. Come si chiama? Perché ci sono tanti attori nel film, certo, chiaramente, no? Ma Coppola, scusami, Marlon Brando ha usato, cioè, come un pretesto, gli attori per Marlon Brando, perché lui in realtà è per Coppola un pretesto, cioè gli altri un pretesto per Coppola, un pretesto di cioè non, adesso mi forse sfugge. È meglio che le faccia un'altra domanda. Il film nella sua complessità configura la scena di una sfida, quale? La sfida tra l'uomo e la natura. E poi? E poi che? E poi c'è la sfida al sistema produttivo, poi c'è la sfida al grande rimosso dell'immaginario, il Vietnam, il processo di vietnamizzazione individuale e collettiva, sì, che altro? Cioè appunto, no, individuale, collettivo, la sfida tra l'uomo e la natura, l'ho detto prima, poi essere pignola. Va bene. Nel senso che è quella la Parliamo di Conrad. Chi? Conrad. Conrad. Cuore di tenebra. Che cosa rappresenta il fiume per Conrad Coppola? Ah, Conrad Coppola, sì. Conrad. Conrad. Conrad. Conrad. Conrad Coppola, il fiume rappresenta il percorso. Era proprio il percorso, cioè il percorso, sì, di questo fiume che scende a valle e che poi lì nella valle si scopre con questi frasche. Il percorso del serpente, un fiume grande e possente che somigliava a un immenso serpente disteso, con la testa sul mare e il corpo in riposo, che descriveva lontano una curva sopra una vasta regione e la coda perduta nelle profondità dell'interno. Quel fiume mi affascinava come un serpente affascinerebbe un uccellino spaventato.